un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'Altra Europa, come ogni settimana qui per raccontare l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, l'Europa che in queste settimane, questi mesi possiamo dire ormai, è al centro di mille accuse. Noi cerchiamo di non nascondere quelli che sono i punti critici, però cerchiamo anche di portare altre idee, altre visioni. Lo facciamo appunto mettendo al centro le persone. Le coordinate per seguirci: euronetplus.eu è il portale di Euronet Plus, il network al quale apparteniamo, ed è una bella piazza virtuale dove trovare tante inchieste, dove trovare tante notizie in tante lingue diverse. Sui social invece Euronet Plus R24, oppure il mio account personale @ Federico Taddia, Facebook e Twitter, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ovviamente, come sempre, tutto ciò lo potete riascoltare e ritrovare sul nostro sito radio24.it. Oggi partiamo da Expo, ma da un punto di vista divergente, che è quello dei profughi. هذا البيت عندكم سوريا في قذيفة يعني هاي شو نازلين ولا ما انتم نازلين قاعدين هون قاعدين حتى الله يفرجها Quello che state ascoltando è un trailer, si chiama Dick Street Zero, un documentario sulla vita di Mahmoud nel campo profughi di Zaatari. Documentario che verrà presentato domani, una giornata particolare ad Expo, una giornata dedicata ai profughi del mondo, giornata che ha voluto la Commissione Europea in collaborazione con Oxfam, proprio una campagna nata per sensibilizzare l'opinione pubblica europea e fare il punto sul dramma dei profughi del mondo che così bene conosciamo, perché è la realtà che ci sta circondando in queste settimane. Sirian, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, queste sono le tre principali case umanitarie al centro di questa campagna. Per capire quello che succederà domani e nei prossimi giorni, diamo il benvenuto a Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia. Buongiorno Barbieri, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Beh, in questi giorni l'opinione pubblica, tante discussioni, tante confronti sul far vedere o non far vedere, immagini crude, immagini drammatiche che abbiamo conosciuto sfogliando i quotidiani. Il far vedere è un po' il cuore della campagna che avete scelto di mettere in atto insieme alla Commissione Europea? Il far vedere sì, è il cuore, e pensiamo che sia l'elemento fondamentale, perché molto spesso parliamo di numeri e non di persone, e anche se i numeri ci dicono che crescono in maniera impressionante il numero di persone che vivono lontani dalle loro case, siamo oltre 60 milioni di persone divise tra sfollati interni nei paesi, 38 milioni e 19 milioni di rifugiati, e oltre 1,5 milioni di persone richiedenti asilo, ecco, la somma di queste fanno 60 milioni di persone. Questo numero, se cresce, spesso non dice niente finché non vediamo l'effetto, magari anche molto marginale, la punta dell'iceberg la vediamo nei nostri confini, ma la realtà è durissima e avviene molto spesso nei paesi del sud del mondo. È la cifra più alta di persone sfollate, di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, e la campagna You Save Lives vuole dare delle storie, vuole raccontare cosa ci sono dietro questi numeri, prende delle testimonianze, delle vite. Il tema di District Zero, che è il documentario che verrà presentato domani ad Expo in anteprima mondiale, alla presenza del commissario europeo Stylianides, della nostra direttrice internazionale Biangima e del regista Paolo Irabru, vuole proprio fare porre l'attenzione su questo, sulla storia di quelle persone che stanno nel campo profughi di Zaatari, dove vivono 85.000 persone, e questo è il senso della campagna You Save Lives. Ci sarà anche domani ad Expo l'inaugurazione della della mostra fotografica Rendili visibili del fotografo Luigi Baldelli presso lo stand dell'Unione Europea. Ci sarà un momento di teatro, di improvvisazione teatrale sul tema dei profughi, tutti i momenti su cui vogliamo focalizzare l'attenzione su quello anche che l'Europa fa di buono, perché tutti questi interventi, gli interventi umanitari che vengono finanziati nei paesi in via di sviluppo devono rimanere una priorità alta. In questo l'Unione Europea, Oxfam investono milioni di dollari perché le persone abbiano il diritto ad un'assistenza umanitaria, e il senso della campagna You Save Lives va proprio in questa direzione. YouSaveLives.org è il sito per tutte le informazioni. L'hashtag che racconta tutto e dice tutto è Rendili visibili. Grazie davvero Barbieri. Un'ultima domanda prima di salutarci: che senso ha fare tutto ciò in un luogo che comunque è anche patinato, è anche dove il bello è ostentato come Expo? Ha un senso particolare perché il tema di Expo è il tema di nutrire il pianeta, e il tema degli ultimi e di quelli che vivono in situazioni di maggior bisogno chiaramente deve essere una priorità per l'umanità intera. È un luogo patinato, ma è un luogo dove anche ci sono migliaia e migliaia di visitatori ogni giorno, e per questo abbiamo bisogno di raggiungere tante persone. Questo è il senso del nostro messaggio: abbiamo bisogno che i cittadini dell'Europa abbiano la percezione di quelli che sono i problemi del mondo e di come l'Europa e cosa l'Europa può fare per intervenire. Ricordo da ultimo che domani sono disponibili ancora dei biglietti omaggio. Mandando un'email a info@oxfam.it sarà possibile assistere a questa anteprima mondiale del documentario District Zero, che sarà proiettato poi a San Sebastian e in vari festival cinematografici del mondo. Quindi chi manda un'email rapidamente riceverà conferma se ancora i posti sono disponibili entro la fine della serata. Perfetto. info@oxfam.it. Le tante facce domani. Di Expo, le tante facce del pianeta, l'Unione Europea e Oxfam insieme. Grazie davvero Barbieri. Grazie agli ascoltatori. Buon lavoro. Adesso ci fermiamo, un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso Shining Stars of Europe. In occasione dell'Anno Europeo per lo Sviluppo, la Commissione Europea invita i giovani creativi a partecipare a un concorso che con un video racconti un progetto di cooperazione allo sviluppo. I concorrenti dovranno realizzare un video di 150 secondi nel quale si immagini un potenziale futuro progetto di cooperazione internazionale, oppure se ne racconti uno già esistente avviato da una ONG. Ogni video dovrà affrontare diverse questioni legate alla cooperazione e porsi domande come: come possiamo aiutare persone in difficoltà senza renderle dipendenti ma autosufficienti? E come fare in modo che la cooperazione internazionale sia vantaggiosa per entrambe le parti? I tre vincitori riceveranno un premio da 1.000 euro offerti dalla rappresentanza a Lussemburgo della Commissione Europea e saranno invitati alla cerimonia finale di premiazione il 9 e il 10 dicembre 2015 a Lussemburgo. I video dovranno essere caricati sul sito ufficiale del progetto shiningstarsofeurope.eu entro il 30 settembre 2015. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa con i Queen e Radio Gaga, non per essere didascalici, ma andiamo a parlare di Radio Europa attraverso un progetto europeo che vede i giovani coinvolti. Si chiama Eurofonica ed è la prima trasmissione radio universitaria europea. Per capire come è nata e di cosa si tratta, c'è con noi Andrea Fioravanti, 24 anni ed è uno dei membri della prima redazione italiana di Eurofonica. Ciao Andrea, benvenuto all'altra Europa. Ciao, grazie per l'invito. Allora, vabbè, tu c'hai l'Europa nel DNA, vero? So che sei comunque laureato in scienze politiche e relazioni internazionali a Perugia, hai appena fatto un master a Londra, master in giornalismo. Che cos'è Eurofonica? Eurofonica è un progetto che nasce per avvicinare i giovani all'Unione Europea. È un progetto che riguarda non solo l'Italia, ma tantissimi ragazzi giovani da Spagna, Portogallo, Francia e Germania. È un progetto che è nato in realtà, le basi sono nate più di un anno fa, quando a Perugia è stato fatto lo University Media Fest, e da lì si sono riunite le radio più importanti di tutta Europa e si è deciso di creare questo programma che andrà in onda una volta alla settimana settembre fino a febbraio e una volta al mese direttamente da Strasburgo. Quindi saremo lì nel cuore dell'Europa a raccontare a noi, ai nostri colleghi, a tutti gli ascoltatori che cos'è l'Unione Europea. Che Europa racconterete? Il focus quale sarà? Il palazzo, le istituzioni, le opportunità giovanili, o è a 360 gradi questa visione che volete dare? Il nostro obiettivo è duplice. Il primo è quello che hai detto tu, affrontare più o meno tutte queste tematiche, sia quelle che sono magari delle agenzie, delle news più importanti, ma anche raccontare come funziona il palazzo. Noi saremo lì a Strasburgo durante la sessione plenaria e parleremo principalmente delle relazioni e delle votazioni che saranno effettuate lì, e quindi cercheremo di far capire ai nostri ascoltatori che si tratta di cose importanti che ci influenzano tutti i giorni. Però parleremo anche di tematiche importanti, per esempio nella prima puntata, quella che andrà in onda il 9 settembre a partire dalle 6, parleremo del discorso sullo Stato dell'Unione che pronuncerà Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione. Lo faremo con gli ospiti importanti, posso già anticipare, sì, certo. David Sassoli e Lara Ferrara, quindi parleremo anche di diritti dell'Unione Europea. Insomma, faremo un po' tutte e due le cose. Andrea, ma sarà in lingua italiana, o meglio, ogni nazione ha una propria redazione e ha una propria emissione, o ci sono anche momenti in una lingua unica e che andranno in onda contemporaneamente? Allora, per esempio nella prima giornata del 9 settembre, come in tutte le volte in cui saremo in onda da Strasburgo, sarà un'ora per ogni nazione: Spagna, Portogallo, Francia e Italia, poi adesso anche Germania, ci sono anche trattative per Inghilterra e Croazia, però non voglio anticipare che ancora non è dentro, e ognuno di questi paesi si occuperà per un'ora nella propria lingua di spiegare con degli ospiti sempre lì a Strasburgo le tematiche dell'Unione Europea. Il prossimo slot, che sarà quello finale della giornata, sarà dalle 6 alle 7 del 9 settembre. Eurofonica.eu, il portale di riferimento. Andrea, ma c'è voglia di Europa tra i giovani? Assolutamente, c'è voglia di Europa e di capire l'Europa, capire e spiegare spiegarla al meglio. Noi siamo un team che va da Catania fino a Novara, passando per Verona, Perugia, Roma. Tanti ragazzi che hanno risposto con voglia per partecipare a questo programma. Ci sono state tante selezioni e stiamo preparando un bel programma. C'è voglia di Europa, soprattutto di spiegarla con un linguaggio semplice, dinamico e più adatto, con un linguaggio più adatto a noi giovani. Siamo curiosi a questo punto di ascoltarvi. Grazie davvero, in bocca al lupo. Grazie a te. Ciao. Europost-it. Concorso annuale Juvenes Translatores. Frequentate una scuola superiore? Vi piacciono le lingue? Allora potete iscrivervi con il vostro istituto al concorso annuale di traduzione Juvenes Translatores, che si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole selezionate. Verranno ammesse al concorso 751 scuole di tutti i paesi dell'Unione Europea. Durante la prova, gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue ufficiali dell'Unione, verso una delle 23 rimanenti. Pensate che avete ben 552 combinazioni linguistiche possibili. Per l'edizione di quest'anno, i testi da tradurre avranno come tema l'anno europeo per lo sviluppo. Il ruolo di correttori spetterà ai traduttori della Commissione Europea, che sceglieranno la traduzione migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare alla cerimonia di premiazione. Per iscrivervi, visitate il sito ufficiale del concorso ec.europa.eu/translatores. Avete tempo fino al 20 ottobre. Cosa pensano i giovani dell'Europa? L'abbiamo appena chiesto anche ad Andrea, ci ha detto che c'è sete di conoscenza, c'è sete di partecipazione. Sarà vero? Beh, nasce anche, per capire questo, una ricerca che si chiama Catch a EU, come costruire una cittadinanza attiva in Europa, una ricerca finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020, coordinata dall'Università di Bologna. Con noi c'è la professoressa Elvira Cicognani del Dipartimento di Psicologia. Buongiorno prof. Buongiorno. Allora, c'è bisogno di muovere gli psicologi per fare questo tipo di ricerca? Questa è la prima domanda che mi viene proprio distinto. Anche gli psicologi possono dire qualcosa, nel senso che sappiamo che solitamente questo è un tema da sociologi, politologi, educatori, altre figure. Però diciamo che quando si cerca di capire che cos'è che muove i giovani, che cosa li spinge in qualche modo a partecipare sia a quelle che chiamiamo le forme convenzionali, quindi il voto, quindi le forme tradizionali della politica, e anche le forme meno convenzionali, quindi che quelle che sono forse un po' meno conosciute ma sono poi più diffuse che fra i giovani, e si è visto che ci sono molto, diciamo, sono molto importanti anche i fattori di tipo più psicologico, cioè le credenze, le conoscenze, gli atteggiamenti, cioè cosa si sentono capaci dei giovani di incidere, quindi sulla realtà, quindi sul mondo che li circonda. Cioè uno dei problemi che solitamente i giovani ci dicono che gli ostacola nel partecipare è il fatto di pensare di non poter avere un'influenza, cioè di non contare, di non, per cui qui sono tutti aspetti che riguardano da vicino aspetti di tipo psicologico, quindi anche la psicologia a pieno titolo può essere coinvolta, può dare un contributo, e certo. Questo progetto ha come elemento, tra l'altro, che è importante, che la maggioranza dei partecipanti, dei membri, insomma, dell'equipe di ricerca sono psicologi. E sono 9 le università coinvolte, tra università ed enti in tutta Europa, un campione immagino di diverse migliaia di giovani che verranno intervistati. La ricerca sarà basata soprattutto su colloqui, su questionari? No, ci sono in realtà metodi diversi. Cioè, intanto le università sono 8, il nono membro è il Forum Italiano di Giovani, quindi voluto includere proprio anche un'organizzazione giovanile, perché partiamo dal presupposto che se vogliamo capire cosa pensano i giovani dobbiamo anche coinvolgerli, non solo come oggetto di una ricerca come solitamente si fa nei sondaggi, ma anche come collaboratori, quindi partner, quindi abbiamo un partner di giovani che ci seguirà, ci darà anche il proprio feedback, insomma ci dirà quanto quello che noi andiamo a scoprire è rilevante per i giovani, e quindi darà anche il loro contributo. Sì, per cui è un gruppo multidisciplinare, e l'intero progetto, che è molto complesso e con molta attività di ricerca, comprende ricerche che spaziano tra metodi molto diversi. Cioè avremo dall'analisi delle politiche, dall'analisi quindi dalle interviste a esperti di politiche giovanili, all'analisi dei media, come i media parlano dell'Europa ai giovani e come parlano dei giovani e come i giovani usano i media per partecipare, ma anche l'analisi un po' di quelli che sono i curriculum scolastici e come questi trasmettono ai giovani informazioni sull'Europa. E poi avremo anche sia questionari oltre diciamo 10.000 giovani che andremo a contattare, sia adolescenti sia giovani adulti nei diversi paesi coinvolti, e faremo anche uno studio cosiddetto longitudinale in cui li seguiremo a distanza di un anno per vedere come cambiano. Infatti anche era proprio questa la domanda, la mobilità è un po' la parola chiave quando si parla di Europa e giovani. C'è mobilità anche nelle convinzioni, nel ruolo che si pensa di avere o nel ruolo che si dà all'Europa? Sto pensando a quello che vediamo in questi giorni, per esempio la gestione dell'immigrazione, credo che vada a variare tantissimo l'idea che i giovani hanno dell'Europa. Dunque, sulla mobilità, quello che a noi ci ha colpito, ma non è, in realtà qui non è una sorpresa, nel senso quello che abbiamo visto che può discriminare nei giovani, parlando di giovani anche i nostri italiani verso l'Europa, è il fatto di essere coinvolti in programmi di formazione europea. Cioè, l'abbiamo visto proprio anche direttamente, perché siamo stati anch'io coinvolti in programmi di questo tipo, quando i giovani fanno esperienze in Europa in cui si trovano a dover lavorare insieme ad altri giovani di altri paesi, quindi lavorare anche didattici, quindi anche in Erasmus intensivi, si è visto che molte ricerche lo dimostrano, che i giovani che fanno queste esperienze hanno opinioni più positive verso l'Europa e anche partecipano di più anche al voto, per cui questo è un elemento sicuramente di cui tener conto anche quando poi si pensa anche a iniziative di tipo formativo, quindi nelle scuole. Tra l'altro uno delle ricerche che andiamo a svolgere, che riguarda le scuole, andremo a fare a proporre un programma di formazione della cittadinanza attiva che coinvolgerà dei ragazzi, studenti di 5 scuole diverse, dove praticamente li coinvolgeremo in prima persona da cercare di analizzare un problema della loro comunità e attraverso le attività e il progetto loro saranno coinvolti anche a discutere di questo problema con altri giovani di altri paesi, fino ad arrivare a proporre delle soluzioni. Una simulazione di comunque governance multinazionale, Sicuramente, sì. Grazie davvero, in bocca al lupo, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa anche per raccontare i risultati. Che tempi vi siete dati? Dunque, il progetto è partito proprio alcuni giorni fa, abbiamo concluso oggi il convegno di avvio del progetto con i partner, e avrà una durata di 36 mesi, quindi finirà agosto del 2018 con la conferenza finale che faremo a Bruxelles, organizzata da noi, dell'Alma Mater di Bologna, in cui inviteremo anche alcuni di questi ragazzi poiché coinvolgeremo nel progetto. Ci diamo già appuntamento fin da ora. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, grazie. Ci fermiamo, un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europostit. Realize IT Entrepreneurship Incubator 2015. Sei un giovane imprenditore e desideri confrontarti con i tuoi coetanei da tutta Europa? ESA, l'associazione studenti e alunni Erasmus, ti invita a partecipare a Realize IT Entrepreneurship Incubator, che si terrà a Berlino il 23 e 24 ottobre 2015. Realize IT Entrepreneurship Incubator 2015 sarà un evento dedicato ai giovani imprenditori europei che intendono sviluppare un nuovo business, una startup o un progetto innovativo. I candidati dovranno essere membri di una delle 4 associazioni partner di ESA, cioè Erasmus Mundus Students Association, Erasmus Student Network, Garage Erasmus o Oceans Network. L'obiettivo di Realize IT Entrepreneurship Incubator è premiare i migliori business model in termini di innovazione, comunità, sviluppo e potenzialità di mercato. In questa occasione, i giovani imprenditori europei potranno vedere premiata la propria idea e cercare nuovi partenariati e collaborazioni internazionali. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell'Associazione Studenti e Alunni Erasmus e saa-eu.org. L'Altra Europa. Con este proyecto los estudiantes descubren una serie de ciudades patrimonio de la UNESCO, pero la verdadera lección es que se descubren a ellos mismos y se comunican entre ellos en una lengua que unos están aprendiendo y otros conocen porque es su lengua materna. Eso es un gran valor. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa. Radio24.it per riascoltare la puntata, trovare tutti gli Europostit, oppure chiocciola Federico Taddia o ancora chiocciola Euronet Plus R24, i nostri account su Twitter e su Facebook. Quello che state ascoltando è il trailer di un documentario che parla di eTwinning. eTwinning è il progetto europeo di gemellaggi elettronici tra scuole che ha compiuto 10 anni e proprio in questi giorni è stato celebrato il compleanno dando letteralmente i numeri, numeri importanti, perché sono sempre di più le scuole, sono sempre di più i professori italiani che scelgono questa strada per fare contaminazione culturale europea. Di tutto ciò ne parliamo con Massimiliano D'Innocenzo dell'Unità Nazionale eTwinning Indire. Ciao Massimiliano, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Si è sempre parlato dell'Erasmus come colonna portante della cultura europea, ma eTwinning sta diventando altrettanto importante, pensando a una fascia più giovane ovviamente. Sì, eTwinning è un'opportunità per gli insegnanti, per le scuole e con loro ovviamente per gli alunni, per entrare in contatto con tutta Europa restando nelle loro aule, quindi sfruttando gli strumenti delle nuove tecnologie, quindi una cosa altamente diciamo al economica alla tempi, esatto. Ecco, e soprattutto che non permette un alto costo, quindi gli spostamenti reali, ma spostamenti virtuali, quindi l'utilizzo di internet, cosa che gli alunni fanno tutti i giorni, ma in chiave didattica, quindi aiutati dai loro insegnanti. Quindi è un po' l'amico di penna che c'era, quando ero bambino andavo a scuola, comunque ci si gemellava tra le classi mandandosi lettere. Questa è un'evoluzione 3.0 ormai di questi gemellaggi, ed è un'immersione di fatto reale nella cultura altrui, ma attraverso l'ambiente virtuale. Abbiamo detto che ci sono numeri importanti, ce li puoi ricordare? Sì, ad oggi abbiamo solo in Italia ben 27.000 circa docenti già iscritti, in rappresentanza di quasi 10.000 scuole, quindi un vero e proprio esercito di insegnanti che lavora con le nuove tecnologie, quindi online, si incontra con colleghi di tutta Europa e lavora insieme per migliorare la didattica e il sistema educativo di tutto il continente. Pensiamo che solo in Italia ci sono stati nel corso di questi 10 anni circa 11.000 progetti eTwinning, progetti di gemellaggio elettronico, su un totale di circa 30.000 in tutta Europa, quindi comunque una partecipazione dell'Italia di grande successo, di grande rilevanza a livello continentale. Insomma, le scuole, i professori, i docenti hanno capito l'opportunità che c'è legata a questo progetto. Concretamente si iscrive il singolo professore, la singola classe, la singola scuola? Chi è l'attore principale? Sì, il protagonista è il docente, l'insegnante che può iscriversi, ma solo se in servizio presso una scuola, per cui un compito di noi come Unità Nazionale presso Indire è quello proprio di vigilare che si iscrivano solo insegnanti, in modo da garantire la sicurezza di questa piattaforma, che è un vero e proprio social network, ma non un social network generalista come può essere Facebook o altri, ma appunto un luogo sicuro dove si incontrano solo insegnanti, e quindi far lavorare anche gli alunni consente di mantenere questa sicurezza e non esporli ai rischi di internet di cui sentiamo ogni giorno parlare. Massimiliano, al di là dei numeri, una curiosità, avete anche analizzato quelli che sono i contenuti che passano in questo social network? Che ne so, dalle ricette locali alle canzoni, ci sono ambiti privilegiati? Sì, ovviamente l'ambito privilegiato è quello dell'insegnamento della lingua straniera, in particolare l'inglese, per cui circa un terzo dei progetti che si registrano in piattaforma sono incentrati appunto sulla lingua inglese. Ma questo terzo non è un numero enorme, anzi fa più rilevanza il fatto che 2/3 non siano sulla lingua inglese, ma siano incentrati proprio su altri argomenti di didattica quotidiana. Ci sono progetti di scienze, progetti di matematica, progetti addirittura per l'insegnamento delle lingue classiche, quindi in latino, in cui magari ci si cimenta nello scrivere un blog in lingua latina, quindi l'accostamento tra il classico e l'ultramoderno, diciamo così. E ovviamente noi italiani poi abbiamo dei temi che amiamo di più, come quelli del cibo. Abbiamo presentato proprio l'altro ieri ad Expo il progetto eTwinning, 2 progetti della Lombardia, della regione Lombardia, di scuole vicine a Milano, che hanno riscosso tanto successo. L'Italia infatti è fra i paesi non solo il numero maggiore di partecipanti alla community, ma è anche uno dei paesi che viene più premiato, quindi il riconoscimento degli insegnanti e degli alunni viene spesso anche a livello continentale, siamo sempre fra i premiati, ad esempio nelle categorie speciali per l'insegnamento della lingua francese, della lingua spagnola e in quelle generali, quindi non solo numeri e quindi non solo quantità, ma anche qualità della didattica e dell'utilizzo della piattaforma. Ricordiamo che sono 35 i paesi coinvolti, quindi oltre anche l'Unione Europea. Questi siti di riferimento, itwinning.indire.it, che è il sito italiano, oppure www.itwinning.net, questo è il portale europeo. Grazie davvero Massimiliano e insomma in bocca al lupo, anche perché per voi sta iniziando l'anno scolastico, quindi il nostro augurio è a tutti gli insegnanti, a tutti i docenti, a tutti i ragazzi, ma non solo italiani, di tutta Europa, perché itwinning ci dà proprio questa possibilità. Buon lavoro! Crepi e buon lavoro a tutti gli insegnanti e gli alunni con itwinning. Grazie! Europostit. Ufficio antifrode cerca investigatori. L'ufficio antifrode della Commissione europea è alla ricerca di investigatori che svolgano inchieste nei settori delle spese europee, della lotta alla corruzione dogane e del commercio tabacchi e contraffazione merci. I candidati dovranno aver conseguito almeno 4 anni di studi universitari con un'esperienza professionale di 6 anni, oppure avere un diploma di laurea triennale seguito da un'esperienza professionale di almeno 7 anni. Inoltre, dovranno essere cittadini europei e conoscere in modo approfondito almeno una lingua dell'Unione e in modo discreto un'altra lingua tra inglese, francese o tedesco. Il contratto sarà a tempo determinato, la sede di lavoro sarà Bruxelles e il compenso ammonterà a circa 5.600 euro con settimane lavorative da 40 euro. Le domande dovranno essere inviate tra il 22 ottobre e il 24 novembre 2015. Tutte le informazioni per candidarsi al ruolo di investigator si trovano nella sezione Job Opportunities del sito eucareers.europa.eu/epso. C'est pas encore notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pune désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui. Lo so, può anche sembrare una provocazione davanti alle critiche dell'Europa che non accoglie, dell'Europa che non sa gestire il problema degli immigrati. A noi piace invece portare esperienze virtuose come quella che andiamo ora a scoprire insieme. Dai barconi all'università, percorsi di inclusione linguistica per minori stranieri non accompagnati, un'esperienza unica, oltre che, come ho detto, virtuosa, e di integrazione linguistica e non solo, promossa dall'Università di Palermo. Minori stranieri non accompagnati, arrivati in Italia, una città li ha accolti, gli ha dato la possibilità di studiare, ha dato la possibilità di avere occasioni come quella, grazie a Erasmus Plus, di andarla a conoscere, questa Europa. Con noi c'è Yusuf Assusso, 20 anni, viene dal Gambia ed è uno dei protagonisti di questo progetto. Ciao Yusuf. Ciao Federica, piacere, io sono. Com'è andata a Bruxelles? Bruxelles è andata benissimo. Sì. Mi sono piaciuto molto. Mm-hmm. Quanto tempo avete trascorso là? Abbiamo fatto tante cose, è una bella esperienza. Uh-huh. E Yusuf, so sì. Che il tuo sogno è diventare cuoco, vero? Sì, è il mio sogno. Uh-huh. Tu hai 20 anni, sei venuto in Italia senza aver frequentato la scuola prima, adesso hai imparato la lingua, hai imparato l'italiano, so che hai ottenuto... Sì. Hai ottenuto il diploma di licenza media, quindi potrai studiare alberghiera. E ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per il traffico, poi torno immediatamente da te. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. Da David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Dal 31 agosto, solo su Radio 24. Questo non credo. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, stiamo scoprendo questo progetto. Questo è il sito internet minoriaccompagnatialuniversita.wordpress.com, un progetto che è diventato anche un libro e un film a cura di Marcello Amoruso, Mari D'Agostino, Yusuf Latif Yaralla e questi protagonisti di questo progetto, vi ripeto, unico di integrazione linguistica promosso dall'Università di Palermo. E Yusuf, cosa avete visto? Cosa avete fatto a Bruxelles? Ok, a Bruxelles abbiamo fatto un po' di attività lì, poi abbiamo studiato le cose, come si può avere lavoro in Europa. Mm-hmm. Ah, quindi certo, la possibilità di cercare lavoro in tutta Europa. Tutta l'Europa, sì. A te dove piacerebbe andare a fare il cuoco? Io mi piacerebbe andare a cuoco, per esempio qua in Italia o in Belgio, se possibile. Ok, quindi o Belgio o Italia, adesso che hai conosciuto appunto anche il Belgio. Qual è la tua specialità? È la mia specialità di lavoro di insegna mia. No, in cucina, qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che mi viene meglio, il piatto italiano, sì. Sono parmigiana, pasta col forno. Uh-huh. Okay. Poi sì, basta, in cucina africana faccio tutto. Ho capito. E Giusto, ma fai anche il mediatore culturale ora, vero? Sì, infatti per questo sto studiando al lavoro. Ho capito. E cosa significa fare il mediatore culturale? Ok, mediatore culturale per fare diciamo tante cose, per separare la lingua tra un'altra lingua e un'altra lingua. Uh-huh. Ti senti cittadino europeo oggi? Sì. Sì. Ok, l'Europa comunque ti senti accolto, ti sei sentito accolto dall'Europa? Sì, veramente, sì, sì. Okay. Grazie davvero per la tua testimonianza, in bocca al lupo per la tua carriera da cuoco. Ciao e buon sabato. Sì, grazie. Ciao, ciao. Europost-it. Young European, il nuovo sito di Eurostat. Siete curiosi di conoscere meglio le abitudini di vita dei vostri coetanei nel resto d'Europa? Di sapere in quanti hanno un lavoro, utilizzano i social network, se sono sposati, hanno figli o vivono ancora con i genitori? Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea, ha lanciato Young Europeans, un sito ideato principalmente per i giovani dai 16 ai 29 anni. Visitandolo, risponderete a domande sotto forma di quiz sulla vita dei giovani europei in 4 diversi settori: famiglia, lavoro, tempo libero, studi e internet. E potrete scoprire tutti i dati e le informazioni riguardanti i vostri coetanei europei. Indicando sesso, nazionalità ed età, potrete mettere a confronto alcuni aspetti della vostra vita con la media del vostro paese, con quella europea e con gli estremi opposti degli altri paesi. Per saperne di più, cercate Young Europeans sul sito ec.europa.eu/Eurostat. Sono partiti il 29 agosto da Kanakkale in Turchia e il ritorno è previsto proprio oggi nello stesso porto, in questo bellissimo abbraccio tra astronomia e navigazione. La barca è quella di Mediterranea, l'abbiamo conosciuta, un'imbarcazione che è un laboratorio culturale, un laboratorio scientifico, una spedizione, quella di Mediterranea, dura 5 anni attraverso il Mediterraneo, il Mar Nero, il Mar Rosso settentrionale, una barca che vuole essere un porto di mare, una barca che vuole essere un luogo di frequentazione di scienziati, di persone che hanno voglia di spendere tempo per contaminarsi con culture diverse. Beh, questa settimana l'incontro è stato tra Mediterranea e l'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale e il Progetto Mediterranea. Sì, perché alcuni studenti di astrofisica hanno avuto la possibilità di navigare su Mediterranea e lì fare ricerca scientifica. Con noi c'è uno di loro, diamo il benvenuto a Simone Magaletti, studente di fisica all'Università di Bari. Ciao Simone. Ciao Federico. Ciao, com'è andata? È andata molto bene, è stato un viaggio molto interessante, sicuramente uno dei più belli della mia vita. Uh-huh. Cosa cercavate? Beh, noi cercavamo innanzitutto un modo nuovo di vedere l'astrofisica, poi cercavamo una bella esperienza sotto un punto di vista culturale, ma anche sotto un punto di vista di condivisione. In barca si condivide molto, si ha la possibilità di conoscere l'equipaggio, si ha la possibilità di conoscere la gente del posto, si ha la possibilità di mettere in gioco le proprie idee e di arricchirsi in una maniera forse unica. Certo, il Mediterraneo, luogo in questi mesi, luogo di fuga, luogo di scontro, luogo anche di incontro, luogo di sofferenza, luogo di morte, cosa si prova ad essere su Mediterranea, in quel mare, alla ricerca dell'altrove, alla ricerca di misteri che comunque raccontano la nostra storia? Beh, è un'esperienza sicuramente molto forte, anche perché abbiamo avuto la possibilità di vivere con il professore, quindi di averlo a disposizione 24 ore su 24 per chiarire ogni nostro dubbio. Poi sicuramente lo scenario ha fatto molto. Siamo stati a Kanakkale, siamo stati a Goceada, che è un'isola dopo lo stretto dei Dardanelli nell'Egeo, che ci ha permesso, attraverso il suo fantastico panorama, anche di scavare un po' dentro di noi per ricercare non solo nell'universo che ci circonda, ma anche nell'universo che c'è dentro ciascuno. Mm-hmm. Ma l'astrofisica un po' si perde guardando le stelle? Beh sì, soprattutto perché non siamo abituati a vederle così bene. Ah sì, quindi insomma avete avuto un incontro proprio a tu per tu con la volta celeste. Quindi un progetto importante e ripeto anche l'esperienza di questa barca di Mediterranea, cosa riporti da questo incontro con questo progetto? Beh, riporto sicuramente un forte sentimento di condivisione. Sulla barca si raccontano storie, si esprimono tranquillamente le proprie idee, si dibatte, si ha la possibilità di mettersi in gioco pienamente. E poi riporto sicuramente i luoghi che ho visto, i sentimenti che ho provato, i profumi che ho potuto assaporare, i colori che ho potuto ammirare. E riporto anche tante amicizie, a cominciare dai miei compagni di viaggio per finire poi all'equipaggio e al professore. Adesso ti metti a studiare, hai gli esami appena tornato? Si riprende purtroppo l'anno accademico e ci tocca rimettersi a studiare. Progettomediterranea.com per conoscere l'avventura appunto con Simone Perotti, l'amico Simone Perotti che abbiamo intervistato qui all'Altra Europa proprio l'anno scorso in occasione della partenza. Ciao Simone, grazie, in bocca al lupo e complimenti a te e a tutti i tuoi compagni di viaggio. Ciao a tutti, crepi il lupo. E termina qui questa puntata dell'Altra Europa. Un grazie come sempre a tutta la squadra, a Valeria Bernardi oggi alla parte tecnica e Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la